Cari amici vicini e lontani, voi che siete nell'etere, voi dispersi nelle onde di Bruxelles, eccoci, tornati a voi. Una nuova trasmissione di Bruxellando che comincia in un modo un po' insolito, con la mia voce anziché quella di Mary D. Dicono che io non sia abbastanza democratica, invece credo che non sia vero, assolutamente no. Bentrovati, bentrovate, Mary D, vi dà il benvenuto di questa puntata di Bruxellando che si annuncia ricca, come sempre, di contenuti. E saluto Dani M per la parte tecnica. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Buonasera. E quindi l'equipe al completo. E siamo contenti perché siamo riusciti nel nostro intento, quello che con George ci eravamo dati all'inizio anno, di avere degli ospiti in studio, bruxellois o belgi o italiani che sono qui a Bruxelles, e questa sera siamo particolarmente contenti perché abbiamo con noi Jean-Pierre Dopagne, il quale non solo parla un italiano ottimo, eccellente, di cui mi complimento, ma è stato professore di letteratura francese, scrittore di teatro, pensate che adatta testi di Dario Fo in francese, tra cui, allora, tra cui ora mi devo ricordare bene, lo faremo dire magari, l'ho scritto troppo velocemente, lo faremo dire a Jean-Pierre, e il quale è stato anche presidente degli scrittori belgi fino a qualche mese fa. Jean-Pierre, benvenuto a Bruxellando, a Radio Alma. Grazie, buonasera. Allora, parlavamo dei testi di Dario Fo, siccome ho scritto troppo rapidamente, ci ricordi quali sono? Sì, ho cominciato la scrittura di teatro con Dario Fo, che è una scuola bellissima, e ho tradotto Gli arcangeli non giocano al flipper, e anche per esempio La ballata del padrone. Esatto, confermo, era quello che stavo cercando di leggere. Sì, voi, allora, i nostri ascoltatori non lo sanno, ma insomma, la scrittura di Mary D è paragonabile, è il livello 1 dei medici. Quindi neanche i medici riescono a leggere quello che hanno scritto. Dai, devo dirvi la verità, quando ero alle superiori mi dicevano la stessa cosa, che probabilmente avrei dovuto intraprendere la carriera di medico, poi ne ho intrapreso un'altra, ma questa è un'altra storia. Jean-Pierre con noi questa sera per parlarci di una figura della letteratura belga che probabilmente sarà molti nota, che è la figura di Camille Lemonnier, che è uno scrittore belga che è vissuto tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, il quale fece molto parlare a suo tempo della sua scrittura e della sua opera per vari motivi di cui Jean-Pierre ci parlerà. Quindi mi viene spontaneo chiederle, Jean-Pierre, com'è nata la sua passione per Camille Lemonnier? Conoscevo un pochino Lemonnier perché l'avevo letto durante gli studi, e quando sono stato presidente degli scrittori belgi ho preparato l'anniversario della morte di Lemonnier. Lemonnier è morto nel 1913 e l'anno scorso fu dunque un grand anno. L'associazione degli scrittori belgi si trova in una casa a Ixelles, nella quale fu ricostituita la stanza laddove Lemonnier scriveva, studiava, e dunque abbiamo tutti i libri di Lemonnier e tutti i manoscritti. Dunque ho letto e ho trovato tanti testi interessanti, e abbiamo dunque organizzato 13 spettacoli con letture di testi, soprattutto i testi che non si possono trovare in libreria oggi. Lo credo, è un autore che, immaginate, ha cominciato a scrivere nel 1869 e la sua prima opera è No Flamand, i nostri fiamminghi, se è stato tradotto così in italiano, ora non so. Sì, se c'è sì, poi sì, una... non so se è tradotto in italiano o alla casa Lemonnier ho trovato soltanto un maschio, che è la traduzione italiana del suo capolavoro, Un Mal. E prima di passare quindi alla sua produzione letteraria, quali sono gli aspetti che l'hanno più colpita della scrittura di Lemonnier? Penso che ci sono tre aspetti. Gli aspetti estetici, perché Lemonnier fu anche critico d'arte, gli aspetti sociali, soprattutto la vita degli operai, una vita molto grigia a quell'epoca, e anche la vita, direi, decadente della borghesia, la borghesia che possedeva le fabbriche, le miniere, e perfino gli aspetti morali, soprattutto le relazioni, l'amore tra l'uomo e la donna, tutto questo in una scrittura molto bella, forte, ricca, calda, un po' selvaggia. C'è un aspetto che mi aveva colpito di Le Monnier, e che lui si distingue per il suo desiderio di difendere l'arte, diciamo, realista contro l'accademismo, e la libertà dell'artista contro le istituzioni dello Stato. Sì, Le Monnier è un amore della libertà, nella scrittura e nei temi che tratta nei romanzi. Ha scritto più di 60 romanzi. Quindi, insomma, una produzione letteraria incredibile. Sì, incredibile, anche perché... A quell'epoca fu molto conosciuto in Belgio e anche in Francia. Si diceva che Le Monnier era il Zola belga. Perché, ricordiamolo, lui era soprattutto un naturalista, al pari dei naturalisti francesi. Quindi dicevamo che ci sono due opere in particolare che rendono ancora la figura di Camille Le Monnier interessante, e... ho un po' sorriso quando ne parlavamo con Jean-Pierre proprio prima della trasmissione, perché è un tema di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e che invece si ritrova nella scrittura di Le Monnier quasi mezzo secolo prima. Jean-Pierre, vuole accennare qualcosa di più preciso su questo? Penso che il testo di Le Monnier dice molto più di quanto possiamo dire noi. E vorrei parlare del suo capolavoro Un Mâle, tradotto in italiano Un Maschio. È la storia di un bracconiere e di una contadina. Un bracconiere che è un uomo molto, molto libero, selvaggio, che vive nei boschi, che ammazza gli animali non solo per mangiare, ma ammazza anche perché gli piace ammazzare. E dunque si innamora di Germaine, una contadina. Per lui l'amore è qualcosa di importante, serioso, ma per la contadina sarebbe piuttosto un gioco. E dunque a un certo momento vuole rompere. E il bracconiere diventa molto triste, l'abbiamo capito, la storia finisce male, con la morte. Con la morte del bracconiere? Ah, non lo dico, non lo dico, sarebbe una sorpresa, bisogna leggere il romanzo. Che bello, che bello, che bello. Veramente, Bapagna sta seguendo, senza saperlo, quello che è un po'... la struttura di Librangolo, dove vengono raccontati i libri come ha sapientemente raccontato questo libro, ma viene lasciato alla fine un dubbio per invogliare a leggere il libro, altrimenti non ci sarebbe poi, insomma, la curiosità e la ricerca di ritrovare per l'appunto il libro in italiano o in francese. Okay, posso leggere l'inizio, per esempio, in italiano, e dopo un incontro tra il bracconiere e la contadina. Ecco l'inizio in una lingua bellissima. L'aria si fece frigida e tutto a un tratto il silenzio della notte venne interrotto. Dall'orizzonte escì come un rumore lento e sordo che corse per i boschi, spargendosi ovunque, per poi morire in un fremito di giovani foglie. Dopo, il silenzio immenso, profondo, ricominciò. Come se la natura tutta volesse di nuovo immergersi nel sonno. Un uomo, giovane, alto, robusto, dormiva tranquillo in mezzo a quell'allegrezza di maggio, con le mani sotto il capo, disteso supino sull'erba, mantenuta asciutta dal suo corpo. Egli dormiva profondamente, come aveva dormito la terra prima dell'alba. Ed ecco adesso un incontro tra il bracconiere Cachapré e la contadina. È già un incontro d'amore. E la stringeva, aveva degli slanci di amore selvaggio, le dava dei baci dolorosi come morsi, apriva la bocca sulla carne di lei e le sue mascelle erano scosse da un fremito, mentre andava ripetendole migliaia di volte che, se lo avesse lasciato, sarebbe morto. Avrebbero trovato la sua carcassa appesa a un albero oppure distesa nel mezzo della strada, e si martoriava la carne con le unghie per farle vedere quanto poco gli premeva la sua persona. Essa gli si gettava addosso, gli ratteneva le mani, lo supplicava con rabbia di crederle e gli diceva: «Se ti dico che ti amerò fin nell'inferno!» Egli la guardava e balbettava: «Dimmi sempre così, se è vero!» «Via, ridimmelo! Guardami in viso!» Qualche volta la interrompeva: «No, non lo dici a modo mio!» Essa lo picchiava impazientita: «Che scioccone!» Beh, di sicuro utilizza molto le immagini e i colori allo stesso tempo. Sì. E immagini molto vive, quindi... Sì. E Le Monnier era critico d'arte. Ecco. Gli piaceva la pittura. E sono curiosa di sapere quale fu la reazione allora qui in Belgio di questo suo romanzo. Uno scandalo. E per quel romanzo e per gli altri... Le Monnier fu attaccato dalla giustizia, per esempio a Parigi c'è stato un processo e ha perso il processo per pornografia. Ah, incredibile. Beh, è certo che la pornografia ci si avvicina, nel senso che come è stata così recitata, se mi consente, come è stata recitata adesso questo pezzo di Amal di Le Monnier, è incredibile. Quindi si vede che c'è uno scrittore di teatro dietro, qualcuno che ha conosciuto il teatro e che interpreta quello che sta leggendo. Quindi io mi sono goduto veramente questi pochi minuti di ascolto, perché sono stati veramente bellissimi. Grazie. E lui non si ferma qui, perché ora abbiamo parlato di un maschio, per dirla così come è stata tradotta, ma lui ha scritto anche delle donne. Ha scritto un altro romanzo che si chiama Une femme, una donna, nel 1899. È la storia di una giovane donna sposata a un uomo più vecchio e un giorno incontra un uomo giovane. Qualche tempo dopo arriva a casa sua. Leggo un brano in francese, così possiamo anche sentire la lingua, la musica di Le Monnier in francese. Assolutamente. Un matin, Baptiste le jardinier m'informa: il y a une jolie dame qui attend dans le hall. Je montai en courant les marches du perron. Vous, Suzy? Moi, dit-elle en riant sans se lever du fauteuil d'osier. Et, la jupe de son amazone légèrement relevée sur ses guêtres à boutons de nacre, elle battait à petits coups de sa cravache leurs disques luisants l'un après l'autre, avec attention. « Je ne vous gêne pas, au moins ?»« Quelle idée ! Mais je suis parfaitement heureux !» Elle se leva, ramassa la traîne de sa robe qu'elle se jeta sur le bras, fit très vite à petits coups de talons sonores le tour du hall. Elle paraissait agitée, nerveuse, et puis, revenant vers moi, elle me dit hardiment, tout à fait calme: « Philippe, voulez-vous de moi ?» D'une voix d'enfant, elle me demandait innocemment si je voulais de son amour. Je n'aurais eu après cela qu'à l'emporter jusqu'au lit. Je l'avais fait avec tant d'autres. Mais les autres, c'était moi qui étais allé vers elle. Aucune n'était venue la première, comme Suzy. À Avec le tremblement de mes mains, doucement je l'attirai vers le fauteuil d'osier. Je me sentis l'aimé d'une ardente passion. « Suzy, ma petite Suzy, se peut-il que ce soit vous ? Mais je ne vous ai pas mérité, je ne suis qu'un homme comme tous les hommes. Et puis, s'aimer, c'est bien terrible. » Elle haussa les épaules, puis elle me dit presque avec colère de sa voix rauque et basse, « Mais prenez-moi donc ! Vous voyez bien que je vous veux !» Dio mio che donna. Esattamente, Dio mio che donna. Allora mi viene una spontanea domanda, ma allora c'è Amal e infam. Purtroppo in italiano si tradurrebbe come una donna, però forse in questo caso bisognerebbe dire un maschio e una femmina. Esatto. Perché riveniamo all'essenza, no? Riveniamo all'essenza di entrambi. All'essenza di entrambi, questo è molto bello. Quindi forse per la seconda volta Lemony anche in questo caso ha subito magari un processo per pornografia o comunque ha creato scandalo anche questa volta. Bisognerebbe anche leggere la fine del romanzo. Bene. Non è più pubblicato, molto difficile da trovarlo, ma esiste in versione numerica. In versione quindi digitale come ebook. Jean-Pierre, mi verrebbe di pensare però ugualmente ai temi trattati da Lawrence un po' più tardi negli anni 20 con Lady Chatterley. In maniera, è uno scrittore inglese che pure ha trattato, mi riferisco soprattutto al primo libro con la storia del guardiacaccia, e sono elementi quindi che in effetti vengono già trattati, ma più tardi in Inghilterra, quindi Lemony in questo senso è un apripista, cioè lui inverte un po' le regole della buona società, parla di quello che provano le donne, invece prima le donne venivano ancora viste soprattutto come femme au foyer, siamo ancora a fine 800, voglio dire, non c'è stato un movimento di indipendenza vero e proprio, nemmeno delle donne in generale. È molto moderno e potremmo dire che Lemony scrive sempre con una frontiera tra il bene e il male, tra la buona società e la libertà, e dunque le sue idee non sono per piacere alla bella società dell'epoca. Anzi, è un modo per far riflettere, per indicare che probabilmente proprio in quella società ci sono nuove tendenze che non vanno ovviamente represse così come qualcuno vorrebbe, ma al contrario vanno descritte e raccontate. Vuole svegliare quella società. C'è un altro aspetto di Lemony che mi ha colpito, perché lui aveva già scritto del Belgio e penso che proprio grazie a quell'opera avesse anche ricevuto un premio della letteratura, e quindi mi viene spontaneo chiederle cosa penserebbe oggi Lemony del Belgio. Ha scritto diversi libri sul Belgio. E penso che oggi penserebbe lo stesso come un secolo fa. Guardiamo, per esempio, la letteratura, gli autori belgi. Chi conosce gli autori belgi? Ne parlano i giornali? Ne parla la televisione? Ne parla la radio? No. Parlano degli scrittori stranieri, soprattutto i francesi. E già all'epoca Lemony diceva che il Belgio è un paese che non ha fiducia nei suoi artisti, preferisce gli stranieri. E leggo un brano della Vita Belga, ha scritto La Vita Belga, se mi ricordo bene, nel 1905. Nel 1905, esatto, 1905. Sì. E dice così: la défiance, il semble que ce soit la psychologie du pays. La Belgique constamment met la plus déroutante obstination à s'ignorer. Elle, qui crut au reste du monde, elle ne crut pas à ses propres énergies. Elle fut ainsi sa plus mortelle ennemie. La littérature n'étant en Belgique ni une profession, ni encore moins une situation, on ajoute une page à une autre le soir sous la lampe qui éclaire le cercle de la famille comme on peut. En réalité, la vie littéraire n'existe pas en Belgique. On y fait des livres, en sachant qu'on ne sera pas lu. Le libraire, lui, se désintéresse. Sa vitrine n'est déjà pas trop grande pour tout ce qui se publie à Paris. Ouh là là. Ouh là là. Questo lo scriveva nel 1905. La situazione ha cambiato oggi un pochino, ma non molto. Beh, diciamo che forse nel 1905, considerando il tasso di alfabetizzazione, forse questo poteva avere un senso. Oggi, con gli elevati tassi di, diciamo, almeno di istruzione, non dovrebbe essere così, ma invece purtroppo si fa un passo indietro e non un passo avanti. Jean-Pierre, ahimè, il tempo in radio è tiranno, ma c'è ancora qualcosa che vorrebbe aggiungere, magari su qualche attività che sta svolgendo o ancora sulle Monnier, per salutare i nostri amici all'ascolto? Vorrei, sarebbe auguri, vorrei che i librai e che gli editori non dimenticassero che Le Monnier esiste ancora e che è uno scrittore molto moderno, che il suo pensiero è molto più moderno oggi della cultura americana, per esempio, e del pensiero bene della società francese. Le Monnier è uno scrittore della libertà, forse un po' difficile da leggere all'inizio perché non conosciamo più bene la lingua del Novecento, dell'Ottocento, ma quando si entra nella lingua e negli immagini di Le Monnier, è una meraviglia. Una bellissima meraviglia che vorremmo rivedere. Infatti noi viviamo in Belgio, abbiamo anche noi questa sensazione che gli autori belgi siano poco letti, a parte forse Van Aspe, che però non so se riesce a portarsi dietro anche gli altri scrittori. Insomma, sì, lui scrive dei polizieschi molto, molto letti, però forse se questo fosse il modo per dare il via alla lettura degli scrittori belgi, ben venga Van Aspe, ben vengano tutti gli altri, oppure però che sia sempre difficile trovare qualche scrittore belga che comincia a diventare noto. Se Le Monnier fosse francese, i francesi direbbero il nostro Le Monnier, noi l'abbiamo troppo dimenticato. Tra l'altro avrebbe compiuto proprio il compleanno 2 giorni fa, quindi questa è stata un'ulteriore motivazione per la quale abbiamo scelto proprio di parlarne questa sera. Jean-Pierre, io devo lanciare, prima di chiudere, lanciare una sfida al signor De Pagne, perché ce l'abbiamo qui e quindi voglio lanciargli una sfida, visto che ha scritto di teatro. Chissà se ha anche ridotto qualcosa di Le Monnier a teatro. Le Monnier ha scritto un pochino di teatro, un pochino, ma penso che sua lingua e le sue storie sono molto teatrali. Ok, bene. E grazie a voi tutti, bisogna essere italiano per parlare di Le Monnier, un autore belga. Vabbè, e magari lo porteremo grazie a tutti. E magari lo porteremo anche a teatro, chi lo sa. E questo è lo scopo di Bruxellando, insomma, scoprire anche quelle che sono le chicche nascoste di questa nostra strepitosa capitale. E voilà, eccoci ritornati di nuovo a Bruxellando, le onde che vi ascoltano, le onde che vi suggeriscono sempre cose nuove, e questa sera vi suggeriamo, come sempre, una chicca che ci offre il nostro Fiordaliso, Librangolo. Grazie. Stasera si vede che stiamo tornando un po' nel passato. Io non torno molto nel passato perché si tratta degli anni 70-80, con il libro I Sabotatori di Edward Abbey. E praticamente si tratta di un libro che per la prima volta tratta di ecoterrorismo, però ecoterrorismo fatto nel piccolo, fatto da persone che negli Stati Uniti, nel bel mezzo del deserto di Arizona, vedono come avanza la civilizzazione, ma non soltanto la civilizzazione, ma tutto ciò che va con la civilizzazione, quindi grossissime macchine che rompono le terre vergini per ottenere dei minerali, per alimentare altre macchine che poi ci fanno progredire, ma allo stesso tempo ci fanno anche ci avvelenano anche. Uno di queste persone è un dottore che nella sua città vede un sacco di casi disperati di avvelenamenti, di problemi ai polmoni, eccetera, e già ne ha abbastanza. C'è l'altro personaggio, torna da Vietnam, dalla grande carneficina, e tornando a casa, invece di trovare la pace, trova un altro tipo di carneficina, quella del suo paesaggio amato. E la terza persona, che è un mormone con tre mogli, anche lui un grande amante della natura, che fa dei giri sul fiume Colorado nel bel mezzo della Grand Canyon, anche lui quello che vede è il suo fiume dissacrato. Cioè, lui aveva ancora visto il fiume senza le dighe, esattamente, quando i cervi ancora andavano a bere nel Colorado, quando ancora il paesaggio non era per niente quello che si vede oggi. E quindi, avendo visto quello, per lui è un dissacramento quello che vede attorno ogni volta che torna al fiume, ogni volta che porta dei turisti, eccetera. E questi personaggi, per uno strano gioco della sorte, si incontrano e cominciano a parlarsi e sono troppo d'accordo. E nel loro piccolo decidono di opporre resistenza cominciando a rovinare i macchinari che trovano un po' sparpigliati per il deserto, e poi vanno anche un po', perdono un po', diciamo, l'equilibrio, e cominciano anche a fare delle azioni un po' più esplosivi. Ci sono varie cose molto interessanti di questo libro. Una delle cose interessanti è che i personaggi rimangono simpatici durante tutta la storia. Ci sembrano assurdi, spingono certe cose oltre il limite, ma li capisci bene durante tutta la storia. Cioè, è come se qualcuno finalmente ti riuscisse a spiegare che cosa può spingere verso una resistenza non più muta o non più gentile, ma piuttosto una resistenza forte. Ed è fondamentalmente, secondo me, comunque il motivo viene da non essere mai ascoltati, che comunque rimane un po', diciamo, una malattia, nonostante il fatto che viviamo in una democrazia. Molto spesso certe grida non vengono per niente ascoltate. Un'altra cosa interessante del libro è che comunque può esaltare chiunque, è la rivincita del piccolo, cioè il fatto che qualcuno che conta pochissimo rispetto al sistema, il cosiddetto sistema, possa comunque intralciare questo sistema. E c'è questa euforia che viene fuori da varie pagine del libro, che può essere anche a volte contagiosa. La terza cosa interessante è che questo libro alla fine è stato di ispirazione per vari movimenti, agli inizi dei movimenti, diciamo, ambientali, perché, come sappiamo, i movimenti ambientali sono molto diversi. Ci sono movimenti ambientali che ovviamente cercano di mettere insieme delle persone per cambiare il comportamento, per semplicemente dentro il sistema, agendo in un modo da arrivare, diciamo, a una società più sostenibile. Ma ci sono anche i movimenti ambientali che sono piuttosto verso questo il sabotaggio, verso piuttosto una sorta di ecoterrorismo, di intralciamento del sistema, di agire contro il sistema. E questi movimenti effettivamente si pare che all'inizio si siano addirittura ispirati da questo libro, che non era l'intenzione dell'autore, ma è diventato in un certo senso una Bibbia di certi gruppi e movimenti. Quindi, oltre ad essere un libro basato sulla fantasia, fondamentalmente, cioè un libro, effettivamente un romanzo, oltre ad essere un romanzo è anche un pezzo della storia, la storia recente di questo tipo di movimenti, se vogliamo dire così. Quindi, interessante, E vi troverete anche a sorridere ogni tanto sopra le pagine, un sorriso un po' acerbo, amaro, però vi troverete a sorridere. A volte vi troverete addirittura a questa euforia di cui vi parlavo, e comunque vi troverete un interessante pezzo della storia nostra recente oramai. Ah, però eccoci qua, una cosa interessante: la nascita dell'ecoterrorismo, cioè l'ecoterrorismo, stai dicendo, nasce da un romanzo. Sicuramente sarebbe un po' spinto a dirlo così, però diciamo che ne trae forza o ispirazione, possiamo dirlo. Beh, diciamo, possiamo forse dire che questo romanzo crea il contorno idealistico dell'ecoterrorismo? No, perché diciamo non c'è veramente un'espressione di ideologia nel libro. Nel libro i personaggi si esprimono su questo argomento in mezze frasi che però risuonano molto facilmente dentro di noi. E quando qualcuno sta là a menzionare i cervi che si abbreveravano nel Colorado, è comunque è tipo una corda che risuona dentro di noi, cioè un'immagine che anche noi possiamo sentire di voler proteggere. Comunque loro non si esprimono mai nei sensi di il grande sistema, l'ideologia, sì, dicono le macchine, tutta quella bruttezza che avanza nella bellezza. È piuttosto questo, è questo sentimento che ti dà, questa tristezza sulla bruttezza che avanza dentro la bellezza e lo distrugge. Hai detto a un certo momento che è il contrario di quello che si diceva nel Texas, grande, big is beautiful. Sì. In realtà qui invece siamo nel piccolo e bello, e si parla però sempre di Colorado, quindi ancora l'America che parla di grande e piccolo, quindi questa è una rivoluzione anche culturale, quella di dire no, laddove c'era il grande in realtà noi vogliamo il piccolo, cioè ripartiamo dal basso. Sempre ci sono le due facce della moneta, sempre, e anche adesso ci sono le due facce, perché Tempus Tyrannosaurus Rex, quindi nonostante l'interesse dobbiamo smettere di parlare di questo libro, piuttosto incoraggiarvi a leggerlo. Quindi I Sabotatori di Edward Abbey, buon divertimento, buon pensiero. Ed è stato anche edito in Italia? È edito in Italia, si trova su ibs.it. come al solito la nostra Fiordaliso non ci dice mai qual è la casa editrice, perché dovete cercarla. I Sabotatori, giustamente. Magari ce n'è più di una, così non facciamo torto a nessuno. Esattamente. Cambiamo. In realtà non cambiamo argomento, perché Brussellando esplora e si occupa di viaggio, perché è stato il tema con il quale noi abbiamo fondato la trasmissione. E questa sera siamo particolarmente contenti perché sarà qui con noi al telefono da Roma Folco Quilici, che è documentarista cinematografico nonché televisivo e anche scrittore italiano. Pensate che in oltre 50 anni ha girato il mondo e lo ha fatto facendo conoscere anche i suoi filmati, le sue fotografie nonché i libri. Nel 2008 gli è stato anche assegnato un premio, la Navicella d'Oro, conferitogli dalla Società Geografica Italiana. Folco, buonasera, benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Saluti da lontana Bruxelles, avete freddo? No, quest'anno non abbiamo avuto l'inverno, quindi... L'inverno sereno, è calato un freddo fortissimo. Qui ancora no, è una cosa ancora molto possibile. Al momento diciamo che non ci lamentiamo, ecco, una volta tanto forse si sono invertite le parti. Folco, allora siamo particolarmente felici di averla nostra ospite questa sera, e siccome il viaggio... Io sono felice, grazie dell'ospitalità. Siccome il viaggio è diciamo il leitmotiv di Brussellando, ci viene spontaneo chiederle qual è il suo modo di viaggiare? Oddio... Lei che ha tanto scritto di viaggio. Il 99% stato ed è per fortuna ancora in parte, in gran parte, un viaggiare legato al lavoro. E quindi, diciamo, nella maggioranza sono dei viaggi che non compio mai o quasi mai da solo, perché ho con me uno, due, una volta cinque, una volta tre, insomma i tecnici che servono per fare un determinato lavoro. In certi casi, in certi paesi, per esempio in Brasile, a un certo punto mi sono trovato che avevo intorno un centinaio di persone che soi-disant dicevano di aiutarmi, ma insomma ogni volta è un'esperienza diversa, anche perché è molto diverso un viaggio se uno viene da voi a Bruxelles, come mi è capitato per fortuna molte volte, o va nel cuore del Congo o in un'isola della Polinesia. Ogni viaggio direi che ha una sua storia, ma non solo, ma anche una sua tecnica diversa. Lei è sia documentarista cinematografico che televisivo e ha molto diciamo, fatto sognare, soprattutto noi che eravamo dall'altra parte dello schermo, per il rapporto che lei ha instaurato con il mare. Sono tanti i suoi film dedicati per l'appunto a questa tematica. E quale episodio legato al mare ha maggiormente segnato i suoi ricordi? Se ce n'è uno, poi magari ce n'è più di uno. È difficile sceglierli perché, diciamo, per un verso, se sto così a un'emozione più fisica che altro, il primo viaggio, un po' perché avevo 22 anni, il primo film, Sesto Continenti, e un po' perché era proprio la prima volta che si filmava colori sott'acqua, quindi ero anche molto terrorizzato dai problemi tecnici di in una maniera di filmare che ancora non aveva provato nessuno. A questo si aggiungeva l'incontro con questi esseri marini, soprattutto gli squali, che fino allora sott'acqua tranquillamente con una macchina da ripresa non aveva ancora affrontato nessuno, o perlomeno molto pochi. Ansas, l'austriaco Ansas, certamente prima di noi, forse anche Cousteau, anche se non credo, ma insomma saremmo stati, che ne so, una decina in tutto il mondo. Quindi era un'emozione, era una maniera di avere un'emozione di viaggio molto singolare. Andando avanti nel tempo, man mano che poi non è svanita, ma diciamo ho accumulato e catalogato le emozioni di mare, le emozioni sono state sempre in mare di un altro genere, soprattutto quelle che ancora mi interessano molto, il mondo dei pescatori. Io mi sono sempre poco interessato dei pesci, grandi e piccoli. Quello che mi ha molto interessato è la storia, l'avventura, il rischio, il coraggio di chi va sott'acqua per lavoro, per pescare, per sopravvivere. Eh beh, sì, è passato un bel po' di tempo dalla motonave Formica che nel 52, una volta dragamine, trasformato in qualcos'altro che raggiunse il Mar Rosso e arrivò. Era molto, molto affidabile, ma molto scomodo. Allora, Folco, ci tolga una cabina che, a parte che eravamo in quattro in una cabina piccolissima, ma a parte quello, era una barca fatta per i mari, diciamo, nostri, mediterranei, nel pieno del Mar Rosso, quasi al tropico, era terrificante, per cui si dormiva dove capitava. Io avevo rovesciato il canotto di gomma e stavo canotti di gomma che non avevano il dorso rigido come adesso, ma fortunatamente un dorso anch'esso di gomma, e io avevo il mio letto in quel canotto di 4 metri. Folco, allora, nella sua vastissima biografia e produzione culturale, lei ha avuto modo di collaborare sia con lo storico Fernand Braudel che con l'antropologo Levi Strauss a proposito di 13 film sulla serie Il Mediterraneo e gli 8 dell'uomo europeo. Allora, siamo curiosi di sapere se erano più gli elementi che vi accomunavano o quelli che vi dividevano rispetto alla figura di Braudel e di Strauss. Guardi, intanto distinguiamo bene, quelle di Strauss erano state delle interessantissime interviste, ma tipo che uno arrivava al suo studio, suonava alla porta, poneva la domanda, registrava la bellissima, interessantissima risposta e la metteva da parte perché serviva. Quella con Braudel invece è stata un'amicizia da padre a figlio, anche se lui poi in fondo aveva solamente 3 o 4 anni più di me, era un uomo che da quando l'ho conosciuto per 20 anni ci siamo visti e rivisti anche fuori dal lavoro, ogni volta che io andavo in Francia o quando lui è venuto spessissimo in Italia, lui aveva tra l'altro un convegno annuale a Prato in Toscana sull'economia, che era un convegno di studiosi uno più interessante dell'altro, quindi è stato un grande viaggio nel tempo con lui, le ripeto, dal quasi 20 anni in cui ininterrottamente ci si vedeva, avevamo tra l'altro anche un bellissimo progetto, quando lui poi invece è stato proprio colpito a tradimento da un male che non gli ha dato scampo. Sì, purtroppo è proprio così. Era un uomo straordinario, che amava molto la Francia naturalmente, la Germania moltissimo per la sua cultura e voleva molto bene a noi italiani. Beh, meno male c'è ancora qualcuno. Lei è stato probabilmente tra i primi, ma su questo magari mi può correggere, a fornire immagini dell'Italia dal cielo. E lo ha fatto più volte a più riprese. Allora è stato proprio il primo. Quindi ecco, l'informazione era corretta. Quindi volevamo sapere come è cambiata dall'alto, quando lei rivede nuovamente le varie produzioni di cui si è occupato, che cosa ha notato, che cosa la colpisce oggi andando indietro nel tempo? Guardi, allora io parliamo di un salto di quasi 40 anni, perché andiamo dal 66-67 e tutti gli anni 70, perché io ci ho messo appunto una decina d'anni a fare quei 18 film. E poi sono passati tanti altri lavori in giro per il mondo. Tre anni fa ho rifatto un lavoro dal cielo, percorrendo la via dei pellegrini, l'Italia che vedono, che vedevano e che vedono ancora oggi i pellegrini che giungono a Roma dal nord dell'Europa, e quindi ho percorso grandi parti dell'Italia con l'elicottero dal cielo. E due cose mi hanno fatto molto impressione: uno, che non sentivo quasi nessuna differenza nel grande paesaggio, le montagne, le campagne, a gran parte delle coste, e poi invece c'era una profonda differenza nelle città, perché le piccole, le grandi, le più grandi come Milano, Roma, si erano ingrandite di molto e in un certo senso erano diventate così delle paludi di cemento, poco. Mentre la prima volta volare su Roma era stato molto emozionante, su tutte le città italiane. Adesso questa cintura di cemento e di asfalto che le chiude, insomma, guasta molto il desiderio di vedere una città italiana, ma penso non solo italiana. Io dico italiana perché le ho potute, diciamo, misurare sull'arco di questi anni. Invece il paesaggio, il 90% del paesaggio, per esempio il verde per fortuna è molto aumentato. Ah, meno male. Sì, i boschi, le pinete, le abitaie in montagna, dato che c'è molto meno lavoro, molto meno popolazione che vive in montagna. I paesini delle Alpi e dell'Alto Appennino sono deserti oggi. Quindi si tende a vivere di più nei centri più grossi e si tendono poi a spopolare invece le aree interne. E Folco, invece lei, passando quindi dal cinema alla scrittura, che poi è uno degli argomenti di cui Brusselnando si occupa in prevalenza, è pure un autore molto prolifico e ha scritto sia per adulti sia, seppure cimentato recentemente, per la letteratura diciamo per i ragazzi, con Storia del mare e Amico Oceano. E come sente che è cambiata la sua scrittura, soprattutto in rapporto alle nuove generazioni? È la fortuna di avere non tanto dei figli, perché ormai quelli sono grandi, ma dei nipoti che, stando tra una via di mezzo tra gli 8 e i 16 anni, in varie misure, sia maschi che femmine, vedevo che erano sempre molto interessati a quello che raccontavo. E se qualche volta vedevano dei miei film, volevano sapere, come dire, in retroscena, com'era la vita in quel villaggio, com'era la vita di quella famiglia. E quindi piano piano avevo raccolto questi racconti di ragazzi dell'età loro, ragazzi tra i 10 e i 14 anni, africano, uno somalo, una ragazza giapponese, una brasiliana, cioè questi racconti piano piano mi sono accorto che li avevo sotto mano, li ho messi insieme in questo libro che per la verità mi dà molta soddisfazione perché ormai mi pare che sono già 3 o 4 anni, forse anche 5 che è uscito e continua ad andare molto bene, il che nel campo delle vendite dei libri oggi è un po' difficile. Assolutamente. Posso dire. Io la sento parlare, ho letto, ho visto. Oddio, io la sento poco. Cerca di parlare un po' più forte, adesso mi sente. Ecco. Va bene, scusi. No, dicevo, io l'ho vista, fin da piccina la seguivo, i libri, ho visto, non dico quasi tutto quello che ha fatto, ha girato, perché è impossibile, visto che è una produzione enorme, ma molto. Allora mi chiedo, da Sesto Continente, che è uscito nel 54, quando ancora l'Unione Europea non c'era niente di Europa. Io vorrei il parere dell'uomo Folco. L'uomo Folco, il signor Folco, che cosa ci potrebbe dire di questo Europa? Perché fra un po' dovremmo avere le elezioni del Parlamento Europeo. Cosa ha visto lui che ha girato tanto, che ha visto molti luoghi, molte persone diverse, che ha visto tutti i retroscena di tutto quello che ha girato? Ecco, che cosa vede come retroscena, che cosa vede come futuro piuttosto dell'Europa? Ma io sono un ottimista di naturale, spontaneo, senza contorcimenti. Mi è sempre piaciuto e forse in un mondo difficile come è stato quello del cinema e in quello ancora più difficile come è diventato quello della televisione, insomma l'ho sempre affrontato senza disperarmi. Però devo dire che in questi ultimi anni l'insieme di tutte le cose, io recentemente ho scritto un articolo per Sole 24 Ore qua in Italia, un paginone, per raccontare con delle prove diciamo concrete come tre quarti dei viaggi che io ho fatto in Brasile, in Cina, in India, in tante parti del mondo, ma soprattutto in Africa e anche in America Latina, non si possono più fare, sono sconsigliabili o addirittura proibiti. Se penso quanto abbiamo filmato di bello nel mare e nelle savane della Somalia, immaginare quello che c'è ora, e così in alcune zone del Sudafrica, la Nigeria, ma insomma anche mi ha fatto impressione recentemente andare in Sud America, trovare tutto nelle città funzionante al massimo, sviluppato, però quando parlavo di partire per fare un lungo itinerario in macchina venivo subito sconsigliato, perché lì c'è una, per esempio, cioè, non sono tanto dei disordini politici quanti di malavita, insomma tra un motivo e l'altro vedo che in 50 anni il mondo, anziché allargarsi, si è molto molto ristretto. Vabbè, e allora non sono più tanto ottimista. Questa è una considerazione che è stata fatta anche recentemente e che purtroppo trova nelle sue parole una ulteriore conquista. Folco, ahimè il tempo in radio è tiranno, però avremo ancora una curiosità. Recentemente abbiamo avuto il piacere di incontrare Renzo Rossellini. Tra l'altro, mi corregga, penso che lei sia stato anche allievo invece di Roberto Rossellini, il quale ci diceva che probabilmente il cinema sarà salvato proprio grazie al digitale. Quindi chiederemo anche a lei, che insomma ha raccolto milioni e milioni di immagini con la fotografia e con i film, secondo lei il digitale è una perdita o una conquista? Diciamo che è certamente una conquista, tant'è vero che quando dovevo andare in giro per il mondo con macchine fotografiche o macchine da cinema prese a pellicola avevamo una montagna di bagagli, c'era la necessità di molti assistenti, non si vedeva mai quello che si faceva. Io quando ho fatto, non so, Ticoio su Pescecane in Polinesia oppure Oceano alle Tuamotu, io non ho mai visto quello che filmavo. L'ho visto quando sono tornato in Italia, perché la pellicola non arrivava, ci metteva già molto a tornare in Italia, non è che certamente poi tornava nei posti dove noi c'eravamo. Quindi per un verso diciamo tutto quello che è diventato di elettronico da qualche anno a questa parte è magnifico. Il difetto è, se posso dirlo, che migliora sempre, voglio dire, non c'è mai un sistema. Io proprio oggi lavoravo a un lavoro che dovevo fare sulla Sicilia, guardavamo del materiale che avevo già, ma fatto non molto tempo fa, ma già è un sistema che va cambiato, perché c'è un sistema ancora migliore, ancora più perfezionato. Cioè, questa ricerca, diciamo, ipertecnologica è magnifica, però è anche una maniera per continuare a creare, come posso dire, degli spazi chiusi dove quello che è fatto, rimane lì. E infatti è molto difficile recuperare un film vecchio, o perlomeno non è difficile, ma è costoso. Assolutamente. È molto costoso recuperare un sistema non solo da pellicola, ma anche da magnetico. Un magnetico degli anni 70, nel 2014, per vederlo bisogna fare tutta una lavorazione che costa un sacco di soldi. Per cui molto lavoro, molto materiale resta un po' isolato. Assolutamente. Folco, in chiusura un saluto, un messaggio. Scusi? In chiusura, perché ahimè ci mancano 2 minuti per la fine della nostra trasmissione. Prego. Vorrebbe lasciare un messaggio, oppure c'è qualcosa che vorrebbe ancora dirci che non gli abbiamo chiesto? Ma i messaggi, insomma, ci sono tutti questi uomini politici che ne mandano, ne lanciano uno al minuto, non voglio mettermi in concorrenza. Io dico che nel campo delle immagini c'è un grande problema, io non so se c'è anche in Belgio, ma penso che sia ormai universale, che è il degrado continuo, lento ma continuo, del livello culturale delle televisioni. La televisione, quando nacque anni 50, sembrava veramente il grande spazio per unirci, capirci tutto, conoscerci meglio. Io non dico che la televisione deve essere fatta solo, per carità, di programmi culturali, non è quello, però voglio dire che l'insieme e anche dei programmi culturali, è talmente sceso in basso come qualità che questo mi dispiace molto. Eh beh, purtroppo sì. L'uomo Folco, se fosse... che qualche giovane in gamba dia qualche calcio nel sedere a qualcun altro e prenda prima o poi, come dire, il timone in mano in qualche televisione del mondo. Una domanda al volo: se Folco Aquilici fosse nato 2 anni fa, lei pensa che avrebbe cominciato a lavorare e a fare le prese subacquee anche utilizzando Twitter? Oddio, ho sentito bene ma non ho capito, forse sono rimbecillito. No, no, stavo semplicemente dicendo, lei avrebbe usato Twitter magari anche mentre sta facendo le riprese subacquee? E avrei usato cosa? Twitter, i messaggini rapidi, quei 150 caratteri per me. Anche capivo la parola. Vede, la risposta è che io l'ho dovuto far ripetere la domanda perché quella parola mi era sfuggita. Allora, no, già non lo userei mai. Ecco, questo mi sembra essere un ottimo suggerimento per quanti volessero saperne di più. No, voglio dire, lo vede quando li trasmettono, fanno vedere in televisione quello che si dicono amorevolmente i capi di Stato, solo perché sono ridotti a delle banalità, perché sono ridotti a quel messaggio. Esatto, no, ma era chiarissimo il messaggio, Folco. Allora, per i nostri ascoltatori ricordiamo che è stato appena pubblicato, anzi oggi esce in libreria in Italia, edito da Barbera, Il mio mondo, con una prefazione di Davide Bregola, che pure è stato nostro ospite, e qui vanno anche i nostri saluti. Folco, noi la ringraziamo. Sono io che vi ringrazio. E speriamo, magari, chissà, tra qualche mese di averla anche nostra ospite qui a Bruxelles. Quando vuole. Ne saremo onorati. A presto. Grazie. Auguri e buona trasmissione. Grazie. Ed eccoci qui, siamo veramente in chiusura. Io ringrazio la nostra Fiordaliso. Grazie a voi. Il nostro George. Grazie. Non sapevo amassi tanto i social media. Il nostro Daniel. Grazie a tutti. E io saluto la Mary D, la grande Mary D. E noi vi auguriamo un'ottima settimana e a martedì prossimo. Ciao.